Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21 quasi e 3 minuti, una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio, insieme in redazione a Miriam Lucchetti, in regia ad Andrea Roccabella, insieme un'ora per raccontarvi questa giornata. I nostri titoli: monito di Mattarella, manca il lavoro, dobbiamo fare di più, sindacati hanno celebrato il 1 maggio a Portella della Ginestra, in corso il concertone a Roma, musica alternativa a Napoli. E scontri a Parigi al corteo del 1 maggio con un bilancio di 4 agenti feriti, tra 6 giorni il ballottaggio per le presidenziali. Un nuovo inizio per Renzi dopo il successo delle primarie, domenica prossima l'investitura ufficiale. La cronaca, nuovo femminicidio a Roma, vittima una insegnante di 47 anni. Dunque, queste le notizie in primo piano oggi, in corso il concertone, dicevamo, ascoltiamo. C'è lo stato sociale che si sta esibendo in questo momento, anche con qualche critica al governo, ma noi partiamo collegandoci proprio con il concertone, con la nostra Teresa Trillò. Buonasera Teresa. Buonasera Annalita, buonasera. Sì, siamo qui, siamo nel backstage, c'è cioè tutta quanta la preparazione che stiamo preparando ora Gabbani, per il prossimo dovrebbe essere lui, quindi c'è grande attesa nella piazza. Il concerto è iniziato alle 15, cioè in realtà il preconcerto, il concertone vero e proprio è iniziato alle 16. C'è molta gente, però mi pare un po' meno degli anni precedenti, anche perché ci sono delle misure di sicurezza molto molto ferrate, tutta quanta la piazza che è circondata e ci sono dei controlli con dei gate per il controllo. Si sono esibiti molti artisti fino ad ora, e ora è iniziata la parte. Qualche polemica, lo stato sociale che si sta esibendo in questo momento, quindi il successivo ci dici sarà Gabbani? Dovrebbe essere Gabbani secondo la scaletta, ed è qui nel backstage che si sta preparando, quindi sì, dovrebbe essere lui la prossima. Infatti adesso è iniziata l'ultima parte del concerto e ci sono, oltre a Gabbani, ci sarà anche poi Bruno Arizzaz, Edoardo Bennato, Fabrizio Moro. Insomma un po' il clou. Teresa, allora noi torneremo a parlarne più tardi, ascoltiamoli i suoni di questa piazza. A dopo. Stato sociale dunque che si sta esibendo in questo momento, noi continueremo a fare delle incursioni nella piazza di Roma del concertone. La giornata era cominciata in Sicilia, come dicevamo, a Portella della Ginestra, dove i sindacati hanno voluto ricordare le 11 vittime dell'eccidio del 1 maggio del 1947. Da Roma il monito del Capo dello Stato. Il lavoro è una priorità, il primo dei nostri beni comuni, e se manca la democrazia potrebbe essere messa in crisi, così il capo dello Stato durante la tradizionale celebrazione del 1 maggio in Quirinale. Laddove la struttura produttiva e sociale non è più in grado di assicurare quelle condizioni che sorreggono i nostri diritti di cittadinanza, allora la crisi rischia di contagiare le stesse istituzioni rappresentative. Occorre dunque per Mattarella rendere effettivo il diritto al lavoro e non lasciare solo chi lo ha perso, evitare conseguenze in termini di riduzione del lavoro, di compressione dei salari. Alla cerimonia presenti tutte le più alte cariche dello Stato, tra cui il ministro del lavoro Poletti, che rivolge un pensiero commosso alle vittime degli incidenti sul lavoro. E intanto i sindacati sono a Portella della Ginestra per aprire le celebrazioni del 1 maggio, la località siciliana dove il 1 maggio 1947 avvenne la strage che portò alla morte di 11 contadini che manifestavano per reclamare i loro diritti. Così Susanna Camusso, CGIL. Fu una strage, Portella della Ginestra 70 anni fa. Ancora oggi noi ben conosciamo qual è la verità storica, ma non abbiamo avuto giustizia. Una celebrazione in una regione, la Sicilia, che hanno ricordato i sindacati, ha uno dei tassi di disoccupazione più alti d'Europa. Barbagallo, Will. E a distanza di 70 anni ancora non sono cambiate molto le cose. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Manifestazioni oggi in tutta Italia e ci sono stati scontri a Torino. Primo maggio di tensione a Torino, dove la polizia interviene per bloccare l'accesso in piazza San Carlo, teatro del comizio dei sindacati, all'ispezione dei centri sociali. In coda a quello principale circa 200 manifestanti sfilano dietro uno striscione con la scritta Poletti infame e un furgone con la bandiera No TAV. È allora all'imbocco di via Roma che le forze dell'ordine impediscono l'accesso alla piazza. Per tre volte una ventina di antagonisti travisati e armati di bastoni tentano di deviare dal percorso autorizzato. Poi il lancio di sassi e uova contro i poliziotti che rispondono con le cariche di alleggerimento. Un quarto d'ora di guerriglia, poi in piazza si concludono gli interventi e gli antagonisti vengono fatti passare. Il tutto si risolve con un passante rimasto leggermente ferito cadendo nel tentativo di allontanarsi dall'area degli scontri e tre manifestanti fermati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E alta tensione in Francia. A sei giorni dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, disordini sono scoppiati durante la manifestazione sindacale quando un centinaio di persone incappucciate si è radunato a Place de la République per prendere parte al corteo verso la Bastiglia e hanno lanciato bottiglie Molotov contro le forze dell'ordine. Intanto la campagna elettorale va avanti. Primo maggio di campagna elettorale in Francia a soli sei giorni dal ballottaggio presidenziale. In un comizio a Parigi il candidato liberale Macron, dietro il quale si è coalizzata la maggior parte dell'establishment politico transalpino, ha definito il Front National come il partito dell'antifrancia e il partito della menzogna. Macron ha invocato una fase di ricostruzione e ha disegnato un progetto di futuro basato su una Francia patriottica, riformatrice, efficace e giusta, una Francia forte in un'Europa che la protegge. A proposito di Europa, Macron ha invocato il ritorno sul proscenio della Francia a sostegno di un'Europa forte, democratica, potente e rispettata. Aujourd'hui, l'adversaire du peuple français, c'est toujours le monde de la finance. Marine Le Pen ha scelto invece Villepont, una banlieue a nord di Parigi, per l'ultimo grande comizio della campagna. La candidata di estrema destra ha preso di mira il suo avversario, definendo Macron come l'uomo che intende aggiungersi alla lista dei presidenti per diritto divino. Poi ha incalzato: l'avversario del popolo francese è la finanza, stavolta ha un nome, una faccia, un partito e si è candidato, si chiama Emmanuel Macron. La Le Pen si è presentata come la candidata dell'altra Francia, quella che si sveglia presto per lavorare. Per lei l'appoggio del padre Jean-Marie, giunto a margine della tradizionale omaggio del primo maggio da parte dell'estrema destra a Giovanna d'Arco. Nei sondaggi Macron continua a dominare con uno scarto tra i 16 e i 22 punti, il che lascerebbe presagire una vittoria, ma non un trionfo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Politica italiana dominata invece ancora dalle primarie del PD dopo la vittoria di Renzi. La paura dell'astensionismo dei vertici PD è alle spalle, quasi 2 milioni votanti alle primarie, di cui, dati di fatto definitivi, il 70% a Renzi, 19,5 ad Orlando, il 10,49 ad Emiliano. Nel 2013 votarono comunque 2 milioni 800 mila persone. Non si tratta di una rivincita, ribadisce intanto lo stesso Renzi, ma di un nuovo inizio, e ad Orlando ed Emiliano, che lo incalzano su legge elettorale d'alleanze, l'ex premier ribatte: alleanze sì, ma non con i partiti. E la grande coalizione vogliamo farla con quei cittadini, con quei volontari, con l'associazionismo, non con dei presunti partiti che non rappresentano talvolta nemmeno se stessi. Terremo conto delle battaglie di Orlando ed Emiliano, spiega ancora Renzi, che conferma quindi pieno appoggio all'esecutivo Gentiloni. Auguri a Renzi intanto dal candidato francese all'Eliseo Macron, quanto alle altre forze politiche italiane. Di Maio, 5 Stelle, ricorda: il ritorno alle urne dopo il referendum oltre 5 mesi fa sarebbe stato l'unico vero trionfo della democrazia. Le primarie senza regole restano un metodo rischioso, commenta da Forza Italia Romani. Le primarie mostrano un partito debole ed isolato, dice da Articolo 1 Gotor. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Primo maggio con i nostri militari all'estero per il premier Gentiloni in Kuwait. È l'occasione per dirvi una cosa molto semplice, di cui credo voi siate consapevoli, ma dovete sentirvi onorati, e cioè che l'Italia considera il lavoro che si fa da qui come un lavoro di importanza straordinaria per contribuire a un interesse che non è un interesse semplicemente strategico legato a esigenze di politica estera, è un interesse direttamente legato alla sicurezza del nostro paese. Il presidente americano Donald Trump sarebbe onorato di incontrare il numero uno della Corea del Nord, Kim Jong-un, se ci fossero le giuste condizioni. Il leader americano lo ha spiegato a sorpresa in un'intervista a Bloomberg. La cronaca dell'Italia con l'ennesimo caso di femminicidio è successo a Roma, in un appartamento centralissimo di Vicolo del Babuino, dove un uomo di 55 anni ha ucciso la propria convivente e poi si è consegnato ai carabinieri poco prima delle 6 di questa mattina. La vittima era un insegnante di 47 anni. Da un primo esame del corpo sembrerebbe che non ci siano stati segni di difesa, fatto che lascia ipotizzare che la donna sia stata uccisa nel sonno. Sembra che l'uomo fosse depresso perché la compagna aveva manifestato l'intenzione decisione di lasciarlo. A Milano, interrogatorio per il pirata della strada arrestato ieri. Un anno fa veniva introdotta la legge sull'omicidio stradale. Ora che è stato arrestato, il pirata della strada parla di colpo di sonno. Non ho visto il semaforo rosso, si difende Franco Della Torre, fermato molte ore dopo aver travolto l'auto di Livio Chiericati, lasciato poi agonizzante tra le lamiere. Ora è accusato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e rischia fino a 12 anni di carcere se dovesse risultare anche positivo ad alcol o droghe, con l'aggiunta poi di un ulteriore terzo della pena dal momento che è fuggito. Così vuole la legge sull'omicidio stradale introdotta nel marzo 2016, che anche se non ha impedito storie come queste ha comunque contribuito a far diminuire il numero delle vittime. L'anno scorso infatti sono calati del 6% i morti, stima la Polstrada, e da marzo a dicembre 2016 in 294 casi è stato contestato il reato di omicidio stradale, che comporta anche l'arresto in flagranza e in caso di condanna la revoca della patente anche per 15 o 30 anni se il pirata della strada scappa. Anche se l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020 sembra ancora distante, la legge comunque qualche iniziale effetto l'ha ottenuto e presto arriveranno anche le prime sentenze. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al tema migranti, in primo piano nel pieno delle polemiche. Vietare l'attracco ai porti italiani a quelle imbarcazioni che fanno capo a organizzazioni non governative che non hanno bilanci trasparenti. È una delle possibilità allo studio della Commissione Difesa del Senato, dove domani riprendono le audizioni sul tema ONG e salvataggi in mare. Si riparte da Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere, il cui bilancio è pubblico e rendicontato. Fra qualche giorno sarà invece la volta di MOAS, la ONG maltese dei filantropi Catambrone. L'anno scorso ha ricevuto più di 5 milioni di euro dai donatori, di cui però non ha ancora fornito l'elenco completo. Hanno invece rifiutato l'invito a Palazzo Madama, ha detto il presidente della Commissione Difesa, l'esponente del PD Nicola Latorre, tre ONG tedesche che operano nel Mediterraneo e sono Lifeboat di Amburgo, CI di Monaco e Jutenrettel. Già sentiti invece procuratore di Catania Zuccaro, l'ammiraglio Enrico Credentino della missione EUNAVFOR Med e la Guardia di Finanza, il cui generale Stefano Screpanti ha negato qualsiasi collegamento di sorta fra ONG e organizzazioni criminali. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche il tema migranti lo approfondiremo nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Ora torniamo al concertone. Il trattamento estetico, sono di moda, sempre di moda. Gabbani, come ci aveva annunciato la Trillò, dunque sul palco. Torneremo anche sul palco del concertone. Ora però ci aggiorniamo su strade e autostrade. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. I principali fatti di oggi, monito di Mattarella nel giorno dei lavoratori, manca il lavoro, dobbiamo fare di più. I sindacati celebrano il 1° maggio a Portella della Ginestra, in corso il concertone a Roma, musica alternativa a Napoli. Scontri a Parigi al corteo del 1° maggio con un bilancio di 4 agenti feriti, tra 6 giorni il ballottaggio per le presidenziali. Un nuovo inizio per Matteo Renzi dopo il successo delle primarie, domenica prossima l'investitura ufficiale. E la cronaca con un nuovo femminicidio purtroppo a Roma, vittima una insegnante di 47 anni. Queste dunque le notizie in primo piano, ma noi, insomma, il concertone è quello ufficiale, però cantano anche i politici. Lasciami gridare e lasciami sfogare. Io senza amore non so stare. Troppo alta. Io non posso restare seduto in disparte. Ma l'avete riconosciuto? E Matteo Renzi cantava venerdì scorso Ricominciamo. E dopo il risultato delle primarie di ieri, insomma, gli dobbiamo dar ragione. Ha in effetti ricominciato. Abbiamo un ospite per tornare sul tema delle primarie. La ringraziamo, in collegamento con noi Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Barbara, abbiamo voluto anche un po' scherzare, ma insomma ricomincia davvero Matteo Renzi. Devo dire è divertente sentirlo cantare. Ricominciamo, bisogna vedere Renzi. Cioè, Renzi tante volte ha detto che aveva capito di aver sbagliato, che avrebbe cambiato atteggiamento. Adesso ha detto che c'è questa pagina bianca da scrivere tutti insieme. Ha riconosciuto anche che nei suoi avversari, ovvero in Orlando ed Emiliano, ci sono dei contenuti che lui vuole portare all'interno, come dire, della sua segreteria, cioè della sua azione politica come segretario del Partito Democratico. Però appunto, secondo me Renzi va atteso alla prova dei fatti, perché per ora cioè è lui il primo a dover dimostrare che questo non è il PDR, cioè non è il partito di Renzi, ma è il Partito Democratico. Questo secondo me è la responsabilità maggiore che in questo momento è sul segretario del PD. Perché... ecco, da domani lui torna a Roma, no? Per preparare l'assemblea di domenica, quando poi la sua elezione diventerà ufficiale. Primi impegni, la legge elettorale e poi all'Italia, insomma, ci sono tante cose. Sì, diciamo che da un lato, allora, la domanda, il punto interrogativo, no? È adesso che cosa succede? Cioè, il Partito Democratico, ovvero Renzi, continuerà a sostenere il governo, oppure in realtà questa sorta di plebiscito che ha ricevuto ieri lo convincerà di accelerare verso le elezioni anticipate in autunno. Finora anche qui ci sono state smentite autorevoli, quali quella di Guerini e di Martina, ovvero due dei principali sostenitori della mozione Renzi. Però, come tu giustamente sottolineavi, ci sono poi dei fatti concreti. Uno è sicuramente la legge elettorale, che, come dire, non è molto concreto per i nostri ascoltatori, però è la legge su cui poi gli interessi dei partiti diventano decisivi, cioè ogni partito veramente sulla legge elettorale combatte fino alla morte. In questo caso ci potrebbe essere un interesse da una parte rilevante del Parlamento e forse anche di una parte del PD a, come dire, a non essere troppo veloci, se mai si è stati su questo argomento, per evitare che appunto Renzi possa avere l'esigenza, cioè possa avere essere favorita a un ritorno al voto rapido. Anche perché quindi, il capo dello Stato non mi sembra tanto per la quale, no? Ma il capo dello Stato ha detto una cosa e l'ha ripetuta anche recentemente. Il capo dello Stato non ha detto il problema non è quando si vota, ma è come si vota. Ovvero il capo dello Stato dice: oggi abbiamo due sistemi, quello uscito da due sentenze costituzionali, una quella sul Porcellum, una quella sull'Italicum, ma che ci hanno dato due sistemi diversi tra Camera e Senato. In realtà Camera e Senato anche nella Prima Repubblica si votava differentemente, senza annoiare i nostri ascoltatori, ma comunque i due sistemi non sono proprio identici, non lo sono mai stati, però decisamente ora sono molto divergenti. Basti pensare che ad esempio alla Camera abbiamo un premio di maggioranza, sia pure con una soglia molto alta del 40%, abbiamo soglie per l'ingresso in Parlamento differenti, alla Camera con il 3% un partito entra in Parlamento, al Senato serve l'8%, quindi sono effettivamente due sistemi disomogenei e il rischio, perché la preoccupazione di Mattarella, il rischio è due Camere con due diverse maggioranze in governabilità assoluta. E quindi chiede appunto, si appella alla responsabilità delle forze parlamentari, responsabilità che, come abbiamo visto però anche in passato, insomma, non è che abbia ottenuto risposte anche in precedenza da parte appunto dei partiti, perché, come dicevo poc'anzi, la legge elettorale diventa decisiva, perché diventa quello lo scoglio, insomma, da superare. Pensiamo soltanto al rapporto tra le varie forze politiche, c'è chi punta al premio di a una coalizione, comunque al fatto che le coalizioni vengano premiate, come ad esempio Forza Italia, perché vorrebbe rimanere appunto in un'alleanza con la Lega e con le altre forze del centrodestra. C'è chi invece, come Renzi, ma anche come il Movimento 5 Stelle, punta al premio di lista proprio perché ritiene di non avere alleati. Renzi non vuole, ritiene impossibile allearsi oggi con chi è uscito ieri dal Partito Democratico, e quindi dice: ma io non mi posso alleare con Bersani, che praticamente ha rotto con me dicendo che con me è impossibile stare insieme. E quindi, insomma, le divergenze sono tante. Poi tu facevi un esempio altrettanto importante, che è quello di Alitalia. Renzi ha fatto capire subito che insomma la liquidazione sic et simpliciter di Alitalia non è che la condivideva proprio, ma adesso la questione andrà affrontata. E quindi cosa dirà il segretario non più uscente ma riconfermato del Partito Democratico? E ancora di più, cosa succederà della manovra, non solo quella autunnale, cioè la manovra che si dovrà fare poi a settembre e che sappiamo sarà oggetto, come sempre, anche di un confronto piuttosto severo con i nostri con Bruxelles, ma anche della manovrina che è in Parlamento e su cui probabilmente ci saranno una serie di emendamenti. Insomma, capiremo nei prossimi giorni, come dicevi, sì, insomma, quali sono i suoi orientamenti. Sì. Senti, io prima di salutarti volevo tornare un attimo alle primarie di ieri, perché i dati non sono ancora certificati, cioè qualcuno, i critici rispetto alle primarie, dicono che comunque un po' di casini ci sono stati, sono scomparsi gazebo e poi insomma il dato, questa vittoria del 70% ad oggi non è ancora certificata. Restano secondo te uno strumento valido? Perché c'è chi dice che ieri è stata la vittoria delle primarie e qualcuno che dice beh insomma invece i dubbi restano. Ma io sinceramente sono rimasta sorpresa, perché in una situazione come questa, con un PD che insomma viene da una scissione, con il vento della politica in generale che non mi sembra un vento molto positivo, cioè effettivamente che 1.800.000, 2 milioni siano andati ad un seggio a votare durante un ponte, insomma io lo trovo un bel esercizio democratico e secondo me anzi dovrebbe far riflettere un po' tutti, cioè al di là di come poi c'è una gran voglia di partecipazione, cioè la partecipazione non c'è, c'è la delusione da parte probabilmente di noi, dico anch'io, elettori, cittadini, ma quando un partito, che sia con un click, che sia poi con un gazebo, consente una partecipazione, secondo me poi decidere sempre molto, cioè condividere una decisione è sempre molto bello, insomma, e quindi no, io credo che… Quindi hanno vinto le primarie? Per me hanno vinto le primarie, ma soprattutto… Credo che questo possa essere un elemento di riflessioni anche per le altre forze politiche in perché questo è una senso. Mobilitazione, e la mobilitazione comunque aiuta, cioè Renzi questa mobilitazione se la giocherà, e anche in questo senso se la giocherà per andare verso elezioni anticipate oppure per rafforzarsi in vista del 2018. Lo vedremo. Lo vedremo. Grazie a Barbara Fiammari. Buon primo maggio a tutti, davvero, soprattutto a te. Grazie a Barbara Fiammari in collegamento con noi. Noi restiamo alla politica, perché Renzi, lo avete sentito nel servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro GR, ha sentito al telefono Macron. E allora, tra 6 giorni si vota in Francia. Sergio Nava è qui con noi. Buonasera, Sergio. Buonasera. Sergio, allora, quest'asse Renzi-Macron, secondo te, dopo questa telefonata di ieri post primarie, può avere un senso? Cioè i due hanno degli elementi in comune? Hanno degli elementi in comune sicuramente, dati al fatto che entrambi hanno una voglia, una tendenza riformatrice l'Europa. Forse Renzi è più critico verso l'Europa rispetto a Macron. Macron invece si è fatto portabandiera di un europeismo che alla fine ha pagato, paradossalmente contro ogni previsione se vogliamo, mentre Renzi negli ultimi tempi ha più che altro combattuto battaglie contro Bruxelles, o contro un certo tipo di Bruxelles che non gli va molto a genio. Entrambi hanno portato avanti una riforma del lavoro, questo è importante ricordarlo, e contratti simili anche, e tra l'altro Macron ha dichiarato proprio stasera che non rinuncerà alla riforma del lavoro che porta il suo nome. Macron è stato anche, ha spinto un po' di più, è più convinto sul tema liberalizzazioni, cosa che Renzi non ha fatto invece molto. Cosa le differenzia? Sicuramente il carattere. Macron è molto più inclusivo, se vogliamo, è molto più gentile in qualche modo. Renzi ha invece una tendenza un po' più, almeno lo ha dimostrato, ora vedremo in questa nuova fase, a prevaricare in qualche modo, a porre il piede sull'acceleratore del noi contro loro, mentre Macron è sicuramente molto più gentile nei toni rispetto a Matteo Renzi. Senti, anche oggi comizi incrociati, che clima si respira? Allora, il clima parte dai sondaggi. Gli ultimi dicono che Macron avrebbe il 59% contro il 41% di Le Pen. Chi sembra un risultato comunque importante, forse se questi sono i numeri, forse è il caso di ricordare che Jacques Chirac sconfisse il padre di Marine Le Pen nel 2002 con, se ricordo bene, 80-20%. Questo la dice lunga sul fatto che ormai l'estrema destra, ai noi se vogliamo, è fondamentalmente sdoganata in Francia. Non solo il ritorno di una Le Pen al ballottaggio, ma anche il fatto che arrivi, possa arrivare al 40%, è sinceramente preoccupante. Nei comizi di oggi sono state un po' di accuse incrociate, anche se vogliamo, nel senso che Macron ha accusato il Front National di essere il partito dell'antifrancia, il partito della menzogna. La Le Pen ha controbattuto, o meglio, è stato un po' il contrario, perché la Le Pen ha parlato prima di lui, però la Le Pen ha detto Macron è il candidato della finanza, io sono la candidata della gente che si sveglia presto la mattina per andare al lavoro, ora la finanza ha un nome, una lista, uno schieramento, un rappresentante, si chiama Emmanuel Macron. Quindi, però, ricordiamo che tra due giorni poi c'è l'ultimo confronto televisivo e sarà quello probabilmente anche decisivo, se vogliamo, in vista del ballottaggio di domenica. Senti, tu facevi riferimento alla riforma del lavoro in Francia, che non è stata accolta bene, e non è stata accolta bene nemmeno oggi, perché ci sono stati degli incidenti, 4 agenti feriti. Insomma, il tema lavoro domina in qualche modo questa campagna. Gli ultimi dati dicono 6 feriti tra gli agenti di polizia. Bisogna dire che secondo il Ministero dell'Interno francese sarebbero state 150 persone incappucciate a volto coperto e si sarebbero infiltrate nei pressi di Piazza della Bastiglia a Parigi con lo scopo, insomma, evidente di causare disordini. Quindi con ogni probabilità si tratta di antagonisti, comunque persone giovani, diciamo, di estrema sinistra. Però questa è un po' purtroppo sono anche quelle degenerazioni che ogni tanto vediamo nelle manifestazioni del primo maggio. È successo a Parigi, però almeno da quanto si riesce a capire sono stati scontri di una frangia che voleva fare quello, mentre il resto, insomma, del non collegate, insomma, no. Questo dibattito in corso. No. Grazie a Sergio Nava per essere stato con noi. Noi torniamo a fermarci, ascoltiamo il meteo, sentiamo quali sono le previsioni meteo, poi torniamo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:33 minuti, le notizie in primo piano oggi. Monito di Mattarella: in questo primo maggio manca il lavoro, dobbiamo fare di più. I sindacati celebrano il primo maggio a Portella della Ginestra, in corso il concertone a Roma, musica alternativa a Napoli. Gli scontri a Parigi al corteo del primo maggio con un bilancio di 6 agenti feriti, tra 6 giorni il ballottaggio per le presidenziali. Un nuovo inizio per Renzi dopo il successo delle primarie, domenica prossima l'investitura ufficiale. E poi c'è la cronaca, nuovo femminicidio a Roma, vittima una insegnante di 47 anni. Queste le notizie in primo piano, mentre va avanti il concertone del primo maggio, Brunori Sas. Sul palco la piazza prima ha ballato su Occidentalis Karma di Gabbani, dunque un primo maggio che sin da questa mattina si è celebrato in tutta Italia. Noi di questo vogliamo parlare, lo facciamo e lo ringraziamo in collegamento con noi con Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, Bentivogli, il sindacato nazionale dei metalmeccanici FIM CISL e Next hanno però festeggiato un primo maggio in anticipo, sabato 29 aprile, molto particolare. Ce lo vuole ricordare? Sì, in realtà il secondo anno, lo scorso anno abbiamo festeggiato ad Aversa, vicino a Casal di Principe, una realtà altrettanto difficile, infestata ancora dalla camorra per molti aspetti, e quest'anno a Muccia, nel cratere del terremoto. Per cui abbiamo scelto due realtà difficilissime, dove fare impresa significa in qualche modo incontrare migliaia di difficoltà e immaginare qualche sconto sulla legalità, sull'ambiente, sul rispetto dei diritti dei lavoratori. E invece proprio nelle realtà così difficili abbiamo trovato aziende campioni di sostenibilità, di rispetto delle leggi e di rispetto della dignità dei lavoratori. E dallo scorso anno abbiamo deciso, come FIMCISL e come Next, di passare il 1° maggio premiando queste aziende, perché le buone notizie, le buone pratiche sono più contagiose di quelle cattive e aiutano a far andare bene le cose. Bentivogli, lei è anche autore di un volume, di un libro sul futuro del sindacato, dal titolo anche un po' evocativo, Abbiamo rovinato l'Italia, lei si chiede. Oggi, nel 1° maggio, quanto mai la domanda sul ruolo del sindacato si fa pressante? Ma sì, perché c'è una domanda fortissima attorno a noi, positiva, di richiesta di cambiamento. È positiva quella che ci chiede di cambiare, di essere adeguati, di migliorare, più trasparenti, più forti, più vicini alle persone. È negativa quella che chiede di fare a meno del sindacato. Ecco, tutti coloro che pensano alla disintermediazione, cioè che uno vale uno, in realtà non sanno cosa significa lavorare in un'azienda. In un'azienda uno vale uno non vale, non esiste, non funziona. I lavoratori, per farsi ascoltare, devono organizzarsi ancora oggi, anche in questa modernità che è ancora un po' zoppica. Ecco, parliamo anche della politica, perché quando parliamo del ruolo del sindacato è chiaro che la politica conta tanto. Nel PD, lo abbiamo detto anche prima, riprende forza Renzi perché riconquista il partito. Renzi, che con il sindacato non è mai stato molto, molto dolce. E poi c'è il dialogo con i 5 Stelle. Ma sì, Renzi purtroppo in gran parte del suo operato non ha ancora compreso che la rabbia e la disperazione delle persone, se si vogliono trasformare in energia positiva, servono i corpi intermedi, appunto corpi intermedi che si rinnovano, ma servono i soggetti che giorno dopo giorno nei luoghi di lavoro si occupano dei lavoratori e cercano di guardargli le spalle dalle mille difficoltà che ci sono. Oggi 5 Stelle compiono il loro esordio occupandosi finalmente di lavoro, io lo giudico un aspetto molto positivo. Il problema è che appunto si passa dalle battute di Grillo di cancellare il sindacato. Io capisco che uno come Grillo del sindacato non ne ha un gran bisogno, ma i lavoratori assolutamente sì, affrontare la tematica del lavoro con un cerchio bottismo, per cui si passa dall'iperstatalismo di Di Maio contro le liberalizzazioni a invece Arthur Artom, che invece parla del futuro, tutto tecnologia e sharing economy. Ecco, bisognerebbe capire qual è l'indicazione, però detto questo io considero molto positivo che il 5 Stelle abbiano messo al centro la questione lavoro. E poi oggi è arrivato il monito del Capo dello Stato, che insomma mi sembra essere stato anche un monito abbastanza forte in questa giornata. Ma sì, sicuramente sono parole veramente significative. Il nostro, che è un paese di forti dualismi, sta emergendo con forza accanto a quelli storici, il dualismo tra i giovani e il resto del paese. I giovani sono generalmente più poveri, hanno una protezione sociale molto più ridotta, avranno pensioni molto più povere, lavoreranno molto di più e avranno un lavoro molto più discontinuo rispetto ai predecessori, per cui bisognerebbe un po' meno occuparsi della retorica del piagnisteo delle generazioni precedenti e occuparsi finalmente del futuro, perché per poter avere uno stato sociale, un lavoro e anche una rappresentanza in grado di cogliere le esigenze dei giovani bisogna fare veramente tanti passi avanti. Grazie, grazie a Marco Bentivogli, segretario generale della FIMCISL, per essere stato con noi, grazie, e per aver parlato di lavoro in questo 1° maggio. 1° maggio dove si canta anche per non dimenticare, dal concertone. E che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesimo amaro, seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo alla tutta l'aria. Mi basta solo non fare figli, invece no. E invece no. Ancora Brunori Sass dal palco del concertone del primo maggio a Roma, piazza che ha ampiamente ballato con Gabbani su Occidentalis Karma. Torniamo a collegarci con la nostra Teresa Trillò. Teresa. Sì, ciao Merita. Teresa, siamo nei momenti clou, no? Di questo. Sì, siamo nei momenti clou, siamo nella parte finale del concerto e ci sono i nomi un po' più conosciuti e più attesi dalla piazza e dai giovani che sono qui, tanti. Da questo pomeriggio ascolta, non piove nemmeno più, no? Il tempo no, per fortuna ha smesso di piovere, giusto intorno alle 9 c'è stato un po' di pioggerellina, però ora per fortuna è tutto tornato tranquillo, quindi si può ascoltare il concerto senza timore di indupparsi. Senti, c'è stata qualche polemica prima del concerto del concertone di oggi? Si è parlato di piazza nel degrado, di erba del pratone, della basilica troppo alta, insomma, poi la musica ovviamente ha preso il sopravvento. Ma quando tu sei arrivata nel pomeriggio di oggi, che situazione hai trovato? Dunque, nel pomeriggio di oggi, quando io sono arrivata, sì, c'era un po' di erba alta, però purtroppo questa è la situazione di tutte le aiuole e giardini a Roma, nel senso che c'è erba alta ovunque in queste settimane. Quando io sono arrivata ho trovato la piazza con parecchia gente già e c'erano i controlli tutto intorno, perché ci sono, per quest'anno ci sono dei controlli di sicurezza rafforzati per timore di attentati. E quindi c'è un controllo molto serrato tutto intorno alla piazza, in questa piazza si può accedere da quattro punti, e tutto intorno al grande prato che ospita i giovani e dove c'è il palco del concerto, ci si entra attraverso dei controlli con metal detector e gate. Quindi al momento l'erba non esiste più, perché c'è talmente tanta gente che praticamente è stato risolto il problema. Senti, gli applausi più forti per chi li hai sentiti fino a questo momento? Dunque, sicuramente per il primo che ha avuto tanti applausi e che ha scaldato la piazza è stato Rocco Hunt, il rapper napoletano che ha presentato qui la sua nuova canzone. Poi c'è stata moltissima attesa per Gabbani e i ragazzi sono letteralmente impazziti. Anche Teresa Di Chio è stata molto applaudita, poi ha ricordato, ha dedicato una canzone anche a Pino Daniele. E a Rino Zurzolo che ieri ci ha lasciati, poi torneremo a parlarne perché è un altro pezzo del Napolitan Power che ci ha lasciati ieri. Senti Teresa, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona fine di concerto e grazie per essere stata con noi. Ma grazie prima di salutarci facciamo sentire la sua intervista, anche perché l'ha citato, a Rocco Hunt. Ma sicuramente è una grande emozione, perché comunque venire qua in questo contesto sicuramente è una cosa che ti responsabilizza tantissimo. Sono fiero di aver portato, no, insomma, la mia musica e i miei messaggi davanti a tutta questa gente, insomma. Diciamo che oggi è anche la festa dei non lavoratori, perché tanti giovani, i miei coetanei, i miei amici non hanno un impiego ed è una cosa veramente triste andare all'estero, dover lasciare la propria terra per trovare uno stipendio decente. Quindi spero che la situazione possa cambiare in Italia e che le classi dirigenti si mettano d'impegno per cambiarci un po' il futuro. Non il mio, perché ringraziando il cielo ho avuto una grande fortuna, ma il futuro dei miei amici, di tutta la gente a me vicino. Le parole di Rocco Hunt, del giovane Rocco Hunt, un altro campano che ha pensato giustamente nella giornata dei lavoratori di parlare di chi il lavoro non ce l'ha. Dal Parco del Concertone ancora Bruno Risas, che è proprio concluso, sapete quelle cose che uno lancia e conclude in quel momento. Allora ne approfittiamo per fermarci, ci aggiorniamo ancora su strade e autostrade. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 21:46 minuti, in quest'ultimo blocco parleremo di migranti, ma intanto vi riepiloghiamo i principali fatti di oggi. Monito di Mattarella, manca il lavoro, dobbiamo fare di più. I sindacati hanno celebrato il 1° maggio a Portella della Ginestra, in corso il concertone a Roma, musica alternativa a Napoli. Scontri a Parigi al corteo del 1° maggio con un bilancio di 6 agenti feriti, tra 6 giorni il ballottaggio per le presidenziali francesi. Un nuovo inizio per Renzi dopo il successo delle primarie, domenica prossima l'investitura ufficiale. E poi il nuovo femminicidio a Roma, vittima una insegnante di 47 anni. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, tenuto distinto, dai trafficanti. E so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga. Moltiplicate 8.500 per 600 euro circa, che è il costo di ogni viaggio, e avrete delle cifre che sono abbastanza significative. 8.500 in 3 giorni, in 3-4 giorni. Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguono da parte di alcune di queste ONG finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia italiana. E questa è la voce del procuratore di Catania Zuccaro ad Agorà su Rai 3. Da queste parole la polemica è partita sulle ONG, sui salvataggi in mare, polemica che va avanti da molti giorni. Noi ne parliamo e la ringraziamo con la nostra Valentina Furlanetto. Buonasera, buonasera a tutti. Valentina, allora, sarebbe pronto un giro di vite sulle ONG sospette, perché insomma non sono tutte, quello lo sappiamo, sono solo alcune sulle quali si concentra questa inchiesta, questi dati a disposizione di Zuccaro che non costituiscono prove però. Sì, c'è da dire che il procuratore Zuccaro indaga per ora senza aver formalizzato un'ipotesi di reato, senza l'iscrizione di persone nel registro degli indagati, così come anche la procura di Palermo e di Reggio Calabria. Quindi sono 3 le indagini conoscitive al momento sulle presunte collaborazioni fra ONG e organizzazioni invece che si dedicano al traffico di esseri umani, e quindi scafisti e altri tipi di organizzazioni di questo tipo. Indaga anche la Commissione Difesa del Senato, che domani riprenderà le audizioni. Ha già sentito il procuratore Zuccaro, che poi, come abbiamo sentito, ha parlato ad Agorà, amplificando ancora di più le sue accuse, i suoi sospetti, e dicendo che queste accuse arrivano perché lui avrebbe fonti, diciamo, dei servizi che non può usare in una situazione di dibattimento in aula. Però Valentina, allora, le ONG sono tante e ce ne sono alcune che sono nate di recente, tante. Ce ne sono molte e molte non sono trasparenti, questo insomma l'abbiamo raccontato, sì, è un dato di fatto, molte invece lo sono. Lui dice che non si riferisce alle più grandi, in particolare non a Medici Senza Frontiere e a Save the Children, che ricordiamo hanno dei bilanci pubblicati e rendicontati, ma ad alcune più piccole, in particolare a 3 tedesche, e sono Lifeboat di Amburgo, CI di Monaco e Utenrettel, che hanno tra l'altro declinato la richiesta di presentarsi in Senato per queste audizioni. Domani sarà sentito il presidente di Medici Senza Frontiere, prossimamente sarà sentita MOAS, che è un'ONG maltese sulla quale è acceso un faro, non solo perché è di proprietà di 2 filantropi miliardari, i coniugi Catambrone, che in qualche maniera si dice che abbiano alle spalle Soros, e una, in particolare una società di Soros, ma che hanno ricevuto più di 5 milioni di euro dai donatori e finora non hanno fornito l'elenco completo di chi sono questi donatori. Quindi i sospetti si convergono su queste tedesche, su MOAS maltese e su una spagnola che ha già parlato in Senato, che ha già portato i documenti però in Senato. Devo anche dirti, il generale Stefano Screpanti, capo del 3° reparto operazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, ad esempio in audizione al Senato ha detto che non ci sono al momento evidenze di collegamenti fra ONG e organizzazioni che gestiscono il traffico di migranti. Certamente un sospetto di qualcosa c'è, perché l'interno spinge in questa direzione, diciamo, fonti del Ministero dell'Interno spingono in questa direzione. Insomma, vedremo un approfondimento è necessario. Un approfondimento è necessario e vedremo anche dai magistrati se queste indagini vanno avanti, se c'è l'iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati. L'ipotesi è quella di vietare l'attracco ai porti italiani alle imbarcazioni che fanno capo alle ONG non trasparenti, e questo potrebbe essere una cosa dirimente, no? Una decisione da parte dallo studio del Parlamento. Quindi la famosa stretta sarebbe questa, diciamo. Potrebbe essere questa. La stretta in arrivo. Come dicevi, la politica, insomma, da giorni discute solamente di questo, e uno dei protagonisti quando si parla di migranti è sicuramente Salvini, no? La Lega. Salvini che, tra l'altro, passa la giornata del 1° maggio, lui ha detto dormendo, dentro il centro di immigrati del CARA di Mineo, un centro che tu conosci molto bene. Insomma, che ci possa dormire stanotte mi sembra improbabile, no? Mi par di capire. Beh, il CARA di Mineo è il centro richiedenti asilo più grande d'Europa, sono quasi 4.000 persone, una situazione di sovraffollamento molto pesante, in cui dormono 5 persone per stanza, spesso con bagni fatiscenti, e tra l'altro non c'è sorveglianza o c'è molto poca, le persone interne sono il doppio del 2013 e chiaramente molto superiore al numero che questo centro potrebbe accogliere. All'interno del centro ci sono delle situazioni, dilagano piccola criminalità, prostituzione, spaccio, caporalato, tutta una serie di situazioni gestite dai diversi clan delle diverse etnie, quindi per quello dicevo auguri, perché è una situazione in cui, cioè, diciamo, vige un po' la legge all'interno del più forte. E c'è l'inchiesta, come sapete, giudiziaria sul consorzio che gestisce il centro, che ha avuto un appalto triennale da 100 milioni, c'è stato un patteggiamento per alcuni di questi indagati, e il GIP di Catania da poco, accogliendo la richiesta della procura, ha rinviato a giudizio 15 persone con diverse accuse, tra cui anche il sottosegretario delle politiche agricole Giuseppe Castiglione dell'NCD. Valentina, prima di salutarti io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che domani e dopodomani nel GR delle 7 tu ti occuperai e tornerai su questi temi. Sì, vediamo domani mattina che cosa c'è di vero, cosa abbiamo scoperto sul fronte delle ONG e di queste presunte commistioni con i trafficanti di esseri umani, e dopodomani mattina invece parliamo di Frontex, perché Frontex, insomma, quanto ci costa in realtà Frontex, che cosa fa, quanto è lievitato il budget di Frontex in questi anni e per fare cosa? Perché un sospetto è anche che si illumini una polemica per magari mettere tenere all'oscuro quello che invece c'è. Grazie alla nostra Valentina Furlanetto. Terroni Uniti, la canzone si chiama Gentero Sud, perché c'è un altro 1° maggio, quello della musica alternativa, quello di Piazza Dante a Napoli, con la quale ci colleghiamo. Lo facciamo con Massimo Iovine, bassista dei 99 Posse, sul palco di Piazza Dante a Napoli, dove ci sono tanti artisti che dopo Pontida da Napoli, Massimo, vogliono lanciare ancora un messaggio di solidarietà. Assolutamente, oggi in Piazza Dante a Napoli per questo primo maggio festa del lavoro e festa dei napoletani del sud del mondo, ma soprattutto una giornata che vuole sottolineare un tema fondamentale, che è quello dell'antirazzismo. I musicisti si sono uniti anche oggi e abbiamo dato un segnale importantissimo. Ci sono oltre 60 tra musicisti, cantanti, più cabarettisti, speaker di tutte le radio, una giornata fantastica, ma soprattutto, più di tutto, abbiamo visto che quando ci si unisce la gente risponde alla grande, e quindi così facendo probabilmente questi temi diventeranno sempre più importanti e significativi, non solo per quelli che lo ritengono già scontato, ma anche per tanti altri. Senti Massimo, questo sarà l'inizio di altre iniziative, appunto la tappa Pontida, questa di Napoli, della musica alternativa, insomma ci saranno altre iniziative? Guarda, dopo la nascita di questo collettivo Terroni Uniti, e quindi la canzone in primis e poi il viaggio a Pontida, oggi il 1° maggio, ma presto abbiamo intenzione di fare un altro grande viaggio, un viaggio verso Lampedusa per portare anche lì il nostro messaggio. Ah, quindi proprio nella, diciamo, lì dove il problema è ancora più pressante? Assolutamente sì, da Pontida a Lampedusa, passando per il primo maggio di Napoli, per sottolineare ancora una volta e per urlarlo a piena voce che il razzismo deve essere abolito. Non si può essere razzisti nel 2017 e soprattutto contro anche quei folli che per esempio ieri urlavano, facevano i cori razzisti contro Koulibaly, il calciatore del Napoli. Cose così non si possono più sentire, non si devono più vedere negli stadi, nelle piazze, dovunque. Il razzismo va combattuto, perché altrimenti si rischia di avere derive come vedi la Francia, vedi l'Austria, vedi l'America. Non è possibile dare spazio a questi fenomeni e noi artisti lo pensiamo, lo cantiamo e chiediamo ai tanti sensibili di gridare insieme a noi no al razzismo. Senti Massimo, prima di salutarti volevo dire una cosa. Oggi è una giornata anche un po' particolare, perché è una giornata di saluto ad una persona che ama tanto Napoli, ma che ha portato il Napolitan Power ovunque nel mondo. È un po' dedicato anche a Rino Zurzolo l'appuntamento di stasera? Guarda, l'abbiamo detto questa mattina all'inizio di questa manifestazione, lo stiamo ribadendo ogni paio di canzoni. Oggi questo primo maggio è comunque dedicato a un grandissimo uomo, al di là di musicista, un grandissimo uomo, una persona speciale che ha dato tanto a Napoli, che fortunatamente ci lascia un'eredità importantissima che sono le sue note, le sue canzoni. Quindi questa giornata con noi sul palco c'è sicuramente anche lui e questo concerto per intero è dedicato a lui. Grazie Massimo. Grazie a voi. Ciao. Il nostro saluto a Rino Zurzolo e Pino Daniele che si ritrovano lassù per suonare anche loro in questo primo maggio. Siamo ai ringraziamenti in chiusura, grazie ancora in redazione a Miriam Lucchetti, in regia ad Andrea Roccabella. Domani si rinnova l'appuntamento con Effetto Notte, con me Anna Rita D'Ambrosio. L'appuntamento si rinnova tra pochissimo nel nostro GR.